and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Siamo tutti appesi a un filo, vogliamo la pappa. E un saluto da Drago, qui è K che sta cercando attorno ai costi di essere... Un saluto da K, cambiamolo. Senti, no? Ma Stefano Bartezzaghi, il bambino Bartezzaghi dovrebbe venire da te e fare un po' una riunione, sì, in cui ci si parla in di ricreazione, giochiamo no, a scacchi. Ricreazione oggi, niente ricreazione, non lo sai. Come? Nell'ottica dei tagli alla pubblica amministrazione, una volta alla settimana hanno deciso di abbattere i tempi morti e la ricreazione nelle scuole era un tempo morto. È morto. Ma che discorso è? Che ne so, io so soltanto che oggi al posto della ricreazione c'è il sonnellino, quindi c'è solo e quello non è un tempo morto? No, no, anzi, quello sì, sarà un tempo morto, però è stato caldamente suggerito dal caro leader, ops, rettifico, dal caro bambino premier in persona, Il Pisolino, perché? È perché così lui può assopirsi alle riunioni sulla spalla del bambino Letta senza finire sui giornali del giorno dopo. Hai capito? Un'altra legge ad personam. E ora, bambini, il sonnellino. Drago, Drago, dai, Drago. E non risponde? Bambino alpino. No, non si sveglia. Drago, dai, svegliati. Ma cosa fai? Dormi davvero? Ma sì, bambino Alberto, sonnellino. Certo che dormo, è il momento del sonnellino. No, ma sempre a ubbidire, cosa devi ubbidire? Viene anche un po' sonno. Per me il sonnellino è una tortura. Chi lo dici? Io sono grande, mi obbligano a fare il sonnellino, che come si sono trovati. Ma io pensavo che ai grandi piacesse fare il sonnellino. Ma perché, scusa? Perché vedo mia madre, no? Lei dorme sempre. Vabbè, lavora, poverina, è stanca, no? Ma quale lavora? Fa la casalinga? La casalinga, lei dice che siccome ci siamo io e mio fratello che siamo due satanassi, allora non può lavorare perché ci deve curare. Scusate, io sono sempre all'asilo. Mio fratello va al tempo pieno e torna al pomeriggio tardi. Cioè, quindi mia madre fino alle 6 non ci vede, no? E quindi tutto il resto del tempo lei dorme. Vabbè, ma non lo sai, tu sei sempre all'asilo. Lo so, perché quando sono malato, che resto a casa qualche giorno, la vedo mia madre, si alza tardissimo. Poi il pomeriggio dorme ancora. E poi peggio che vuole far dormire anche a me. Vabbè, ma scusa, se tu sei ammalato devi stare a letto per forza. Ma se io non ho voglia, poi lei mi obbliga lo stesso? Sì, perché poi se io sto sveglio e poi non la lascio dormire, perché lei ormai è abituata a dormire tutto il pomeriggio, prende anche delle pastiglie apposta per dormire, così dorme tutto il pomeriggio. Cioè, pastiglie a tempo per il pomeriggio, poi c'ho quelle per... A tempo, non è per svegliarsi mentre tre sveglie, e sennò quella lì fa il giro dell'orologio. Fa il giro delle sveglie. Comunque, tornando a bomba, cioè, lei prende queste pastiglie, no? Sì. Prende... non so quante, però, prende un po' di pastiglie, beve mezza bottiglia di porto. E poi stramazza, no? Dal sonno. Comincia a parlare tutta biascicata. Si sbatte sul divano davanti alla TV. Vabbè, ma è una tristezza, bambino Alberto, non dovresti dirlo così, insomma. Vabbè, cosa volete che vi dica? Se lei fa così. Vabbè, poverina, si vede che è depressa, no? Vabbè, per forza, si è sposata mio padre. Vabbè, ma comunque, se tua madre vuole dormire, lasciala dormire e cerca di giocare da solo, no? È così che si fa quando Ma lei mi obbliga, Vabbè. Mi chiude in cameretta con le tapparelle giù. E guai se le apro, perché lei sente il rumore e allora si sveglia. Ma anche se è collassata piena di sonniferi, porto così sente le tapparelle. Le tapparelle le sento lo stesso. Quelle le sente sempre. Poi se prova a tirare su anche piano piano, niente, arriva come un fulmine, tutta sbiascicata, comincia a menare le mani, non riesce neanche a prendermi perché ma non è tutta sconcongiunata. Ma sei sempre, tu hai letto troppi, non so, romanzi noir alla tua età e ti sei montato la testa. Ma no, qui c'è che mia madre, cioè il fatto che io non ho sonno, e lei sì, ma io no. Ma scusa, se uno non ha sonno può non fare il sonnellino? Qui all'asilo, non so. Sì. Cioè no. No. Diciamo, no, cioè, sì. Se tu non vuoi metterti sulle sdraiette, sì. Puoi fare il sonnellino con la testa sul banco. Sì. Però è uguale, cioè devi stare sempre fermo anche sul banco. Zitto anche, Ma sul banco, zitto, così, che palle. E poi figuratevi, io poi c'ho tutta un'agitazione dentro che come si può pensare che io possa fare il sonnellino? Sì, non si può. Per me è uguale, cioè. Ma in questo momento io ho un'energia, verde. Senti. Cioè, a parte le due ernie e protrusioni, L4, L5, S1. È bene. Però io potrei spaccare tutto, se non ho capito. Sì, per contratto devo fare il pistolino. isolino, però io potrei, capito? È come se avessi 4 anni adesso. Sì, vabbè, 4 dai, anni fa, senti, senti l'energia che. Oh, io ne ho 5 di anni, Attento, non offende. Quasi 6. Quasi 6. Sì. O forse 4, quasi 5. Non lo so, se non lo sai tu. No, è che non mi ricordo più se c'è la mano aperta col pollice così. Vabbè, ma perché voi due non andate a dormire con la testa sul banco? Magari almeno io riesco a fare un pisolino qui, No, guarda, allora, io prima facevo così. Ma adesso le maestre hanno trovato l'escamotage. Per far cosa? Una tortura ulteriore. Ma come? Per quelle che stanno con la testa sul banco. Una tortura? Che tortura? Eh sì, allora, l'ultima volta hanno messo un origami su ogni banco, no? Ma come? E ci hanno detto: lo vedete questo origami? Eh sì. Guai se lo rompete, E chi lo rompe a fine giornata si becca un cuoricino bianco. Tito, svegli tutti. Allora, cuoricino bianco vuol dire che sei stato cattivo. Sì. Cuoricino rosa che sei stato bravino e cuoricino rosso che sei stato bravissimo. Ah, ecco. E io sono sempre cuoricino bianco. Certo. E poi il fatto è che appendono la lista dei cuoricini del mese e tutti possono vederla. Ah, bello, come i camerieri da McDonald's. Quell'odiosa abitudine. Cameriere del mese, sì, sarebbe impiegato del mese. Sì, vabbè. Alla fine, quindi, tu hai rotto l'origami, credo. Perché, per forza. E ti ha messo il cuoricino bianco. Vabbè, tanto li ho tutti bianchi io. E i tuoi genitori cosa dicono? Tutti i cuoricini bianchi? Beh, loro preferirebbero rosso, Beh, certo, cuoricino rosso per i bambini bravissimi. Bravissimi. No? Ma no! Loro vogliono rosso perché a loro piace il rosso come colore, no? Vabbè. Le stelle rosse, le bandiere rosse. E i cuoricini rossi. Compagni, dove siamo finiti? Il mondo intorno a noi cambiò. L'internazionale di Lenin, futura umanità, no? Così diceva la versione originale di questa canzone storica. Cos'è? Di Lenin. Però era la futura umanità, non era futuro di libertà. Quindi la futura umanità che indicavano i comunisti non era certo quella degli embrioni congelati lasciati lì per 55 anni. Cos'è qui? Ma no, ha ragione, ma di cosa parli? Cosa dici? Embrioni congelati di 55 anni? Su cosa? Su tutti i giornali c'era questa notizia che il futuro dell'umanità sta in questi embrioni che ci sono adesso e che possono essere mantenuti per 55 anni congelati, ad esempio in Inghilterra la legge dice così, 55 anni, tu hai tempo 55 anni per far nascere un bambino da un embrione congelato. Posticipi la nascita, sì. Cioè dici adesso questo mondo non mi piace perché il cancro è ancora incurabile, bravo, quindi voglio farti nascere dopo, bambino mio, e lo lasci lì nel frigo. Lo lasci, aspetti. Quindi aspetto. Aspetti, sì, certo. Aspetto. Passano gli anni. Aspetto. E il cancro non lo sconfiggono. E il figlio non nasce. Eh no, è più o meno come un tifoso della Juve, no? Che non vuole che suo figlio nasca adesso, mentre la Juve è così quinta che sta precipitando giù verso il settimo, ottavo posto. E allora aspetta anche lui. Aspetta che arrivi il prossimo scudetto e credo che vada a finire più o meno come la lotta al cancro. 72 anni, embrione nella spazzatura, fa il calcolo, no? E per chiudere un consiglio, anzi due, il primo consiglio è Togetherville, il Facebook dei bambini, possono iscriversi solo bambini dai 6 ai 10 anni, ma attenzione, conta anche l'età mentale, quindi la maggior parte di noi e di voi possono iscriversi tranquillamente. Io senz'altro, Togetherville, io sono già iscritto. Togetherville, quindi, ok. Vabbè, nostro consiglio secondo, secondo consiglio di Trento è prenotatevi per il live di Chiedo Asilo, martedì 22 marzo alle 21, qui all'Asilo Stoppani, alias sede di Radio 24, in via Viale Monterosa o via Monterosa? C'è veramente un dibattito Via le mani da Monterosa. Via Monterosa a Milano. Se volete prenotarvi, una mail a chiedoasilo@radio24.it. Basta. Sono rovinato, la crisi mi ha spiantato, non ho nemmeno i soldi per comprare un deputato. Dicevo soldi, Neanche i soldi per comprare un suonatore di kazoo.